Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Apre malissimo la settimana sui mercati finanziari. Tokyo stamattina sul Nikkei meno 4,53, l'Hanseng di Hong Kong meno 4,70, brusca la discesa in Europa, Parigi meno 2,71, Francoforte meno 3,45, Londra meno 2,43, Milano meno 3,78 sull'S&P MIB, è arrivato a perdere il 4,11%, meno 3 punti sul MIB. Niente di nuovo, siamo abituati a questo e a ben altro da almeno un anno e mezzo, ma quello che ci fa riflettere è che avevamo intravisto, ce ne siamo occupati anche venerdì scorso, segnali di speranza, di ottimismo dall'andamento di borsa delle ultime tre settimane, segnali che ci davano in qualche maniera una piccola misura della voglia di ripartire. Certo, ci hanno spiegato molti analisti, le borse avevano grattato così tanto il fondo che era naturale che gli acquisti ripartissero e probabilmente avessero anche una natura temporanea. Infatti così è stato, arriva un altro sonoro stop e adesso la colpa torna ad essere del settore automobilistico. Sentiamo cosa è successo nelle ultime ore. Torna a piovere sui mercati finanziari dopo due settimane di rialzi che avevano fatto ben sperare analisti e investitori. Questa volta è il piano auto, l'epicentro del nuovo terremoto che a partire dagli Stati Uniti sta già facendo tremare le borse del vecchio continente. Per concedere nuovi fondi al settore, l'amministrazione Obama ha chiesto e ottenuto la testa di Richard Wagoner, dopo 8 anni come amministratore delegato e un'intera carriera spesa in General Motors. Così come aveva fatto per il settore bancario, il neopresidente americano torna a chiedere misure drastiche di ristrutturazione in cambio della concessione di nuovi aiuti. Le due grandi di Detroit, General Motors e Chrysler, hanno già ricevuto infatti prestiti di emergenza per un totale di 17,4 miliardi di dollari come misura necessaria per evitare la bancarotta e stanno aspettando entro il 31 marzo una risposta dell'amministrazione statunitense alla loro richiesta di altri aiuti per circa 22 miliardi di dollari. La task force messa in campo dall'amministrazione Obama per valutare i piani di ristrutturazione dei due colossi dell'auto ha però bocciato i progetti di GM e di Chrysler, sottolineando che entrambi non possono garantire la sopravvivenza dei gruppi. La decisione blocca di fatto altri investimenti pubblici nei due gruppi. GM avrà quindi 60 giorni per presentare un nuovo piano, mentre a Chrysler ne sono concessi 30 per presentare un progetto che preveda anche l'alleanza con Fiat. E insomma, avete sentito, il settore dell'auto torna ad essere ancora al centro dell'attenzione degli investitori ed è quella di stamattina, una seduta di borsa che tra l'altro, un po' come dicevamo in apertura, cancella quel piccolo spiraglio di ottimismo che avevamo visto nelle ultime giornate. Tra l'altro vi leggo anche alcuni titoli di giornali apparsi nel fine settimana. Nuovi spiragli dall'economia statunitense, gli analisti si interrogano sulla temporaneità del rimbalzo, su un'effettiva ripresa dei listini, segni di miglioramento nel mercato immobiliare americano e negli ordini di beni durevoli fanno sperare in un recupero verso fine anno, scriveva il Sole 24 Ore sabato. Milano Finanza, negli ultimi giorni sembra scoppiata la pace fra la Casa Bianca e i mercati perché il presidente ha ammorbidito i toni e Geithner, che è il segretario al tesoro, ha presentato un piano credibile. Qui ci si riferisce ovviamente a quel piano per liberare le banche dagli asset tossici. E ancora vi volevo leggere anche Milano Finanza, Corriere Economia di questa mattina. Borsa, prove tecniche di normalità, i gestori, non è l'inizio della ripresa, l'economia soffre ma il peggio potrebbe essere alle spalle, ora l'orso è in gabbia ma non è domato. E allora, insomma, tanti temi stamattina dei quali discutere e parlare con Matteo Ghilotti, responsabile della ricerca azionaria di Equitas SIM. Ghilotti, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno anche a Gianluca Gabrielli, direttore investimenti di Soprarno SGR, benvenuto a Salva Danaio. Grazie mille, buongiorno. Ovviamente noi come sempre chiediamo la collaborazione per vivacizzare le nostre trasmissioni ai nostri ascoltatori, che ci possono chiamare all'800 24 00 24, ci possono scrivere al 349 238 6666. Allora, non so quanti dettagli ne si conoscano rispetto e al piani di ristrutturazione presentati da GM e Chrysler, ma quello che ci interessa capire stamattina è come mai la notizia che l'amministrazione Obama possa rispedire dire ai rispettivi emittenti il motivo per cui appunto la borsa trema così tanto questa mattina di fronte a questa prospettiva. Matteo Ghilotti, lei come legge le vicende delle ultime ore? Ma diciamo, le vicende che riguardano i produttori di auto secondo me sono solo una parte delle notizie che pesano oggi sulla borsa. Sicuramente c'è quell'aspetto che va considerato, però bisogna anche tenere presente le dichiarazioni del segretario del Tesoro americano, che ha detto che può darsi che altre banche americane abbiano bisogno di aiuti. Questo sicuramente è stata un'altra notizia negativa che pesa sulle banche. E secondo me poi c'è una terza notizia che riguarda sempre i finanziari, e cioè UBS che avrebbe in cantiere altri 8.000 tagli di persone a seguito di risultati del trimestre ancora deboli a causa di svalutazioni, e questo diciamo riporta un po' il tema degli attivi che le banche hanno in bilancio, possibilità di ulteriori perdite. Quindi sono questi tre elementi combinati che indubbiamente danno una botta al mercato. Ecco. Dopo un rimbalzo di oltre il 20%, quindi bisogna tenere presente anche questo fatto che insomma sono due anni che chiunque avesse venduto sul rimbalzo avrebbe fatto bene, quindi ormai c'è questo meccanismo per cui visto un più 20% c'è una gran voglia di vendere. Sì, che la storia del mercato ci insegna che effettivamente in fasi critiche come quella che stiamo vivendo ci sta tutto un rimbalzo che poi possa essere rapidamente bruciato. Tra l'altro questa è stata anche la crisi della volatilità molto forte, mai come in questo periodo abbiamo visto rialzi di mercato in certi giorni accompagnati e seguiti da ribassi altrettanto violenti, per cui dopo 2-3 settimane di recupero che forse era anche inaspettato, uno stop era come dire nelle carte, nei numeri, e probabilmente si aspettava anche Soprano. Gabrielli, lei come la pensa? Ci si aspettava o si attendeva anche una notizia che in qualche maniera potesse consentire agli investitori di portare a casa quanto hanno incassato nelle ultime 3 settimane? Sì, diciamo che a mio avviso quello che mi ha stupito non è il calo di oggi, o è stato il rimbalzo dell'ultimo mese, perché credo che purtroppo a livello diciamo così anche di mercato, di aspettative, di operatori, siamo tutti più o meno un passo indietro a quello che è la reale portata della crisi. Cosa intendo? Che continuiamo a chiederci bilanci bancari, aiutiamo gli asset tossici, togliamo, puliamo i bilanci bancari, eccetera. Ecco, secondo me il problema non è questo, o meglio, questa era la prima fase del problema, che è in via di risoluzione, più o meno lo sappiamo tutti. Il vero problema sono i dati reali che iniziano a vedersi già oggi negli Stati Uniti, che purtroppo arriveranno in Europa. Per dati reali intendo disoccupazione che negli Stati Uniti è intorno all'8% dal 4% dell'anno scorso. Uh-huh. E teniamo presente che l'8% è già stato detto ai mercati da Bernanke e comunque più volte, che questo tasso di disoccupazione potrebbe superare il 10%. In Italia siamo al 6,9%, secondo le nostre stime di Soprano potrebbe arrivare all'11%, quindi significa quasi raddoppiare. Quindi quello che voglio dire è che purtroppo i mercati devono adesso iniziare a tener conto della cosa più grave di questa crisi, molto più grave dei problemi finanziari, che sono i problemi reali, disoccupazione, produzione industriale in calo, ed è per questo che io credo che ogni fuga in avanti dei mercati sia assolutamente prematura, perché a mio avviso le notizie buone non vengono dalla risoluzione o non dovranno essere percepite come quelle che riguardano i bilanci bancari, ma le notizie positive saranno quando vedremo un tasso di disoccupazione che cala e non aumenta, una produzione industriale che aumenta e non scende. E purtroppo qui siamo ancora molto lontano, secondo me. Ecco, tra l'altro questa è sicuramente una interpretazione interessante, perché mi chiedo io quanto anche di sorprendente deve esserci rispetto a quello che sta accadendo nel settore automobilistico americano. Matteo Ghilotti, ritorno a lei su questo comparto, anche perché Obama ha chiesto esplicitamente a uno dei due colossi in crisi, a Chrysler, di portare avanti con velocità l'alleanza con Fiat, anche se su questo punto ha chiesto chiesto delle modifiche. Voglio dire, che cosa pensa della chiave di lettura che ci ha fornito Gianluca Gabrielli di Soprarno? Il settore auto che sia in crisi e che sia in crisi così pesante che l'amministrazione non era sin dall'inizio molto ben disposta ad elargire dei fondi pubblici di sostegno era abbastanza chiaro, per cui ci chiediamo effettivamente quale motivo ci sia stato questa mattina di aver avuto le notizie che arrivano dagli Stati Uniti un effetto così dirompente in borsa, perché la novità non ci sembra poi così clamorosa, al di là delle dimissioni di Richard Wagoner, ma anche queste insomma erano abbastanza chieste da più fronti da molto tempo. Ma io sono d'accordo, infatti ho detto che secondo me la notizia di GM sì, comunque è importante, perché comunque è una scusa per vendere, un motivo in più per vendere, però secondo me sono le altre due che citavo prima sicuramente più importanti, perché in effetti dico forse una cosa paradossale, ma la crisi di GM in un certo senso, soprattutto se pilotata in un certo modo, mi sembra meno grave di altre, perché perlomeno non si può dire che sia una sorpresa. Se i bond valgono di GM, non lo so, ma varranno 10-15 centesimi, ecco, mi sembra difficile che si possa dire che era una crisi inattesa, quindi secondo me non è quello il motivo principale. Il motivo insomma è sempre il solito settore finanziario che non ha ancora scoperto tutte le carte delle difficoltà in cui si trova. Questo succede negli Stati Uniti, ma succede anche in Europa, e secondo lei, a giudicare da quello che sta accadendo stamattina a Piazza Affari, succede anche da noi? Beh, è chiaro che i risultati del primo trimestre e di tutto il primo semestre anche delle banche italiane saranno molto deboli. Chiaro che il mercato questo un po' l'ha anticipato, però bisogna vedere poi quanto deboli effettivamente saranno, perché è chiaro che il 2009 con il fortissimo calo dei tassi, l'aumento delle sofferenze farà in modo che gli utili delle banche saranno molto molto depressi nel 2009. Si tratta di capire se nel 2010 cominceranno un po' a migliorare da livelli bassissimi ovviamente, però sicuramente tutto il 2009 e in particolare il primo semestre la redditività delle banche sarà molto bassa. Scopriremo a maggio se è ancora più bassa di quello che gli investitori già stanno scontando. Tra l'altro, visto che le abbiamo citate, allora Unicredit in questo momento meno 7 punti, il titolo di Piazza Cordusio sta tornando a quotare 1,22 euro, il Banco Popolare meno 6,71, 3,30 euro, Intesa San Paolo meno 6,65 a 2,03 euro, Banca Monte dei Paschi l'ultima ad uscire allo scoperto con la richiesta di Tremonti Bond meno 6,39%. In tutti questi titoli ovviamente ci si infila anche Fiat, che perde il 6,64%. Ma per quello che riguarda Fiat, adesso a prescindere diciamo delle notizie di cui abbiamo appena spiegato che stanno arrivando dagli Stati Uniti, quindi c'è un po' tutta la turbolenza che stamattina accompagna il settore in tutta Europa, c'è il caso francese di Peugeot Citroën che vi racconteremo fra qualche minuto. Più tardi ci collegheremo con uno dei nostri corrispondenti a Parigi. Su Fiat, che cosa potrebbe chiedere Barack Obama al Lingotto, entrando nel merito di questa alleanza con Chrysler che stamattina turba così tanto il titolo? Non so chi mi vuole rispondere, Gabrielli, chiedo a lei se si vuole sbilanciare sul Lingotto. Ma guardi, io le posso dire quello che chiederei io se fossi magari Obama, diciamo così, per 10 anni fa nessuno avrebbe mai immaginato che ci fosse stato un presidente nero, per cui insomma è vero. No, ma io molto semplicemente chiederei un impegno serio, che non sia un impegno alla come Fiat fece con General Motors un po' di tempo fa, lo ricordiamo tutti, no? Fu un grosso affare per Fiat e un grosso problema per General Motors. Ricordate, no, la disquisizione sui put che Fiat aveva ceduto a General Motors, auto, eccetera. Quindi io se fossi in Obama ovviamente chiederei delle garanzie che l'impegno è un impegno serio, è un impegno industriale e non può, secondo me, esimersi da essere un impegno anche parzialmente finanziario, almeno io chiederei che ci sia un impegno anche per quanto riguarda una parte del debito. Ovviamente Fiat farà bene a trattare su condizioni che sono secondo me di forza. Ecco, quello che a mio avviso va segnalato di Fiat, al di là di quello che succederà in Chrysler, è che a mio avviso la salvezza di Fiat nasce dal fatto che la diversificazione in passato ha fatto sì che il settore auto sia uno dei settori di Fiat, punto primo. Punto secondo, il fatto che Fiat è un produttore di di una fase di segmento di mercato dove secondo me la domanda resisterà, potrà essere comunque debole in questa fase, ma è una domanda che in medio periodo potrebbe crescere. E l'ultima cosa è il fatto che comunque Fiat è a gran parte del fatturato è fuori dall'Italia, a meno se escludiamo il settore auto, e quindi a mio avviso questa la rende più forte, perché a mio avviso il motore della crescita, quando questa crisi finirà, e prima o poi finirà, secondo me ci vorranno anni, ma passerà sicuramente, i vincenti saranno quelli che hanno saputo prendere la domanda fuori dall'Europa, e Fiat è una di queste. Ecco, tra l'altro, proprio a proposito del futuro del Lingotto, c'è stata l'assemblea degli azionisti della società venerdì scorso, che ha confermato per altri 3 anni Sergio Marchionne nel ruolo di amministratore delegato, il manager che ha risanato in maniera molto evidente, con successo appunto, la società. E Marchionne ha proprio detto, facendo un po' un punto sullo stato di salute molto precario del settore in questo momento, che non si può prescindere in questa fase dal processo di consolidamento per creare gruppi, ha detto, in grado di reggere meglio alla pressione dei costi. Ghilotti, il consolidamento nel settore auto, verso secondo lei quali altre operazioni deve passare? Attraverso quali altre operazioni deve passare, oltre a queste di cui stiamo parlando questa mattina? Ma è chiaro che sul mercato si è molto parlato di possibili aggregazioni che interessassero anche Fiat, perché chiaramente in Italia si parla più che altro di quello, e come partner si è parlato di Peugeot o di BMW. È chiaro che non sono delle aggregazioni semplici, perché soprattutto in questa fase per ciascun paese non è facile accettare delle riduzioni di capacità produttiva e dei tagli di personale che sono inevitabili, anzi forse sono il motivo per cui queste aggregazioni debbono avvenire. Quello che noi diciamo in sostanza è che se uno guarda la gamma dei modelli, ecco, sicuramente sulla carta un'operazione tra Fiat e BMW sarebbe più razionale, più complementare rispetto a una con Peugeot, però la verità è che si dovrebbe raggiungere un accordo anche a livello politico su dove vanno fatti i tagli, cosa che non è semplice in questa fase in cui la disoccupazione appunto sta già crescendo. E infatti, e tra l'altro, proprio da questo punto di vista il settore automobilistico ha già, come dire, pagato un prezzo piuttosto alto, ma probabilmente potrebbe non essere sufficiente. Allora, stamattina siamo ritornati sui mercati, agli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo al 349-238-6666, ma non avevate annunciato che avreste parlato di mutui? Sì, lo facciamo, è un tema che non scade, sapete bene che ci sono sempre tante novità da raccontare, abbiamo deciso di trasferirlo a domani, perché quello che stava accadendo in borsa questa mattina ci sembrava degno di rilievo. Sì, a giornate negative come questa siamo stati abituati ad assistere appunto più volte nelle ultime settimane, però ancora una volta una discesa molto forte di 4 punti ci sembra degna di interesse, appunto ci sembra interessante analizzarla, perché comunque, a dispetto della fuga degli investitori magari piccoli dai mercati azionari in questo momento, c'è chi comunque continua a riservare a questo comparto una certa attenzione, e ci sembra quindi interessante accompagnarvi anche in questa analisi, prendendo spunto dalle vicende di cronaca. E oggi appunto la cronaca ci impone di monitorare con attenzione quello che accade negli Stati Uniti. Peraltro non lo abbiamo ricordato, lo abbiamo fatto solo nel giornale radio, proprio nel pomeriggio alle 15 ci sarà questa presentazione da parte del presidente americano Obama del piano di salvataggio del settore automobilistico, chiamiamolo un po' così, piano di salvataggio. Credo che Obama banalmente, per modo di dire, annuncerà che i piani di ristrutturazione ai quali l'erogazione di fondi pubblici era vincolata appunto, i piani di ristrutturazione di GM e Chrysler non sono sufficienti secondo questa task force che l'amministrazione ha messo in piedi, per cui chiederà probabilmente Obama ulteriori sforzi, altrimenti gli ulteriori fondi pubblici appunto non verranno erogati. Si tratta complessivamente, come dicevamo nella nostra scheda, di altri 22 miliardi che il settore americano chiede. Allora, ho un minuto di tempo, riesco a far fare la domanda al nostro primo ascoltatore di oggi, che è Guido da Bologna, e poi Guido le rispondiamo nella seconda parte della nostra trasmissione. Benvenuto tra noi. Grazie. innanzitutto volevo chiedere ai vostri esperti se i minimi che abbiamo visto a inizio mese possono essere considerati nel breve periodo minimi assoluti o se andremo a testare nuovi minimi, e nell'eventualità che dovesse ripartire la borsa, soprattutto in Italia, da quale settore prevedono che si possa avere dei miglioramenti. Guido, la ringrazio. Quindi lei, insomma, si interessa soprattutto alla situazione di Piazza Affari, che è tra l'altro il tema preferito dei nostri interlocutori di questa mattina, che sono Matteo Ghilotti, responsabile della ricerca azionaria di Equita SIM, e Gianluca Gabrielli, direttore investimenti di Soprarno SGR. Salva Danaio torna sui mercati, puntata che avevamo già organizzato venerdì scorso perché avevamo voluto così dare una nostra chiave di lettura con i nostri ospiti a questa tendenza che si era manifestata nelle ultime settimane di netto recupero per gli indici azionari, e poi ovviamente tutto l'ottimismo questa mattina già lo abbiamo dovuto buttare perché le borse tornano a scendere giù a causa di tutto quel di tutte quelle novità di cui abbiamo raccontato nella prima parte di Salva Danaio, e cioè piano di salvataggio del settore automobilistico che dovrebbe essere annunciato oggi dal presidente Barack Obama, e che però è un piano di salvataggio che potrebbe venir meno se le due aziende maggiormente interessate a questo piano, cioè General Motors e Chrysler, non modificheranno i termini dei loro piani di ristrutturazione, che alla task force americana costituita proprio per questo problema non appariranno appunto un po' più convincenti. E insomma, tutta una serie di notizie che, insieme ad altre che sono arrivate stamattina, le nuove svalutazioni che forse potrebbe essere costretta ad operare il colosso svizzero e gli investimenti UBS, ma anche l'altra notizia che riguarda le banche americane, e cioè Timothy Geithner, il segretario al tesoro, che ha già annunciato questo piano che è stato colto con molto favore dal mercato per liberare le banche dagli asset tossici. Geithner ha detto: beh, le banche americane potrebbero aver bisogno di altre iniezioni da parte pubblica. E allora tutto questo insieme stamattina che cosa ha fatto? Ha fatto sì che gli operatori si affrettassero a prendere beneficio dei rialzi degli ultimi giorni. Parigi scende del 2,75%, Francoforte meno 3,33%, Londra meno 2,30%, Milano perde di più perché ha molti titoli bancari nel principale paniere, perciò meno 4% per l'intero listino, e tutte le banche che scendono fra i 5, 6 e 7 punti percentuali. Un ascoltatore ci chiedeva al 349-238-6666 se i nostri interlocutori di questa mattina ritenessero i minimi toccati in marzo, i minimi in assoluto che la crisi può produrre per Piazza Affari per l'appunto. Sentiamo un po' che cosa ne pensano. Matteo Ghilotti, Equita SIM. Ma la nostra idea è che sì, non scenderemo sotto i minimi che abbiamo visto il 9 di marzo, anche se insomma, mi ricordo che sono stato vostro ospite alcuni mesi fa e alcuni mesi fa pensavo che non si sarebbe arrivati a vedere quei minimi che abbiamo visto a marzo. Questo per dire che bisogna in questa fase effettivamente stare molto attenti, monitorare attentamente i dati che escono, perché molti dati, anzi la stragrande maggioranza, sono ancora brutti, bruttissimi. C'è qualche piccolo spiraglio positivo che il mercato si affretta a cogliere. Io e la nostra idea è che non bucheremo i minimi di marzo, proprio perché le aspettative scontano uno scenario molto negativo e si sta vedendo perlomeno una stabilizzazione della situazione macro, obiettivamente su livelli bassi, però insomma sicuramente innanzitutto è necessario vedere una stabilizzazione. Gianluca Gabrielli, abbiamo visto tutto quello che si poteva vedere in quanto a grattare il fondo del barile per quello che riguarda in particolar modo la borsa italiana, non si può assolutamente, data la portata di questa crisi e dato tutto quello che ci ha fatto vedere, prevedere alcunché a questo punto? Anche voi, come dire, da questo punto di vista tirate i remi in barca? Ma guardi, secondo me purtroppo i minimi di marzo saranno superati, cioè a mio avviso il potenziale calo del mercato, mi passi il termine, è enorme nel senso, per chi ha già sopportato perdite che hanno visto l'indice passare dai 40.000 punti dell'SP MIB agli attuali 15-16.000 punti, ecco, e uno quindi è portato a pensare ma forse il peggio è passato. A mio avviso il problema è quello che le dicevo prima, cioè il vero impatto della crisi noi in Europa lo dobbiamo ancora vedere, e a mio avviso le prime avvisaglie di quello che ci può accadere l'abbiamo visto in Spagna, cioè il salvataggio di una banca spagnola da parte del governo sotto forma di iniezione di capitali, perché le perdite, diciamo così, su crediti causa il calo del real estate ammontava di questa casa di risparmio a 3 miliardi di euro. Ecco, teniamo presente che non appena in Europa si inizierà a vedere l'aumento del tasso di disoccupazione, il consolidamento del calo degli immobili che già c'è stato in paesi come Gran Bretagna, come in Spagna, parzialmente in Germania e che potrebbe toccare anche noi, ecco, pensiamo quale può essere l'impatto di questo sia sulle sofferenze bancarie non derivate da asset tossici ma proprio dalla crisi dell'economia reale, quale può essere l'impatto di un tasso di disoccupazione. Non scordiamoci, in Italia la produzione industriale non è mai stata a un livello così basso da quando è iniziata la rilevazione di questa serie. Quindi questo per dire, secondo me purtroppo i minimi possono essere ben più in basso di quelli che abbiamo visto a marzo e sono francamente un territorio inesplorato, cioè non mi azzarderei neanche a dire dove potremmo arrivare. Insomma, una visione di soprano, tra l'altro ogni volta che la invitiamo con grande chiarezza ci esprime nel tono più, non so se pessimista o realista possibile, il quadro del suo pensiero. Tra l'altro adesso invece vorrei andare a Parigi, poi magari su questi punti ci torniamo perché mi sembrano tutti molto interessanti. C'è però una testa che cade nel settore automobilistico a Parigi ed è quella del presidente Christian Streiff, non so tra l'altro come l'avrò mai pronunciato. Buongiorno a Leonardo Martinelli, collega delle Sole 24 Ore a Parigi per il quotidiano naturalmente. Allora, come ha motivato l'azienda queste dimissioni? Di chi prende il posto di questo manager? Leonardo, buongiorno. Buongiorno. Allora, il posto lo prende Philippe Varin, che è un manager molto conosciuto qui a Parigi. Già 2 anni fa, quando venne nominato Streiff, si era fatto il suo nome appunto per sostituire Foltz, che era il precedente presidente di Peugeot. E Philippe Varin, che è alla guida di un gruppo siderurgico di Corus e che ne ha anche gestito il rilancio e il risanamento. Devo dire che nonostante appunto molto il grande rispetto per Varin, che fra l'altro non è un uomo della finanza, è considerato proprio un manager molto rivolto a quelli che sono i meccanismi industriali, nonostante tutto questo il titolo Peugeot sta precipitando stamani alla Borsa di Parigi, siamo quasi al meno 7%. Meno 7,5% adesso, sì, stiamo infatti controllando. Probabilmente c'è un po' di diffidenza nei confronti di un manager che non ha alcuna esperienza nel settore automobilistico. Quanto a Streiff, la motivazione ufficiale è la fase delicata che sta attraversando l'industria automobilistica in generale e in particolare Peugeot. Peugeot l'anno scorso ha registrato le sue prime perdite dopo 11 anni. Streiff in realtà era barcollante ormai da tanti mesi e, come indicano tutti i media francesi oggi, è stato praticamente scaricato dalla famiglia Peugeot, che ancora oggi è l'azionista di riferimento del gruppo. Però insomma anche questo è l'altro grande tema del dibattito attuale: chi non conduce un'azienda in maniera profittevole deve pagare. Questo tra l'altro è l'altro grande tema al centro anche dell'attenzione del presidente Obama. Vedremo se nel pomeriggio considererà anche in maniera positiva le dimissioni di Richard Wagoner da General Motors. Grazie a Leonardo Martinelli, tra l'altro sul tema da Parigi per il Sole 24 Ore, sul tema dei cambi, dei vertici e soprattutto dei magari grandi manager che è il caso che si facciano da parte in una fase come questa. C'è una considerazione di un ascoltatore che è Alberto da Milano. Alberto, benvenuto. Alberto. Pronto? Sì, abbassi la radio per carità, sì, perché certo sento. Fatto. Grazie, buongiorno. Ci dica. Ringrazio per la chiamata, ma la domanda che avevo fatto circa un'ora fa è superata dall'intervento di un certo Guidotti e poi gli altri che hanno spiegato non solo i motivi per Wagner e quell'altro, ma anche per c'è anche l'UBS e compagnia bella. Quindi, però mi sembra tutto molto esagerato, molto nevrotico, perché uno, appunto risparmiatore, mica si alza al mattino, sente che Wagner non c'è, corre in banca, vende tutto. Quindi ci sono altre manovre, penso io, che sono di finanziari, che so io, che approfittano di queste notizie già scontate per creare panico. Vendere, comprare e fare quattrini, punto, finito. Grazie. Vorrei aggiungere adesso due cose. Primo, ancora pochi minuti fa l'OCSE dice che il PIL scenderà del 4%, fra un'ora un altro dirà che scenderà del 3,5%, quell'altro del 7%. Vabbè, ma vogliamo questi istituti di ricerca, queste previsioni di questa gente che non si sa chi è. Ogni no, beh, adesso che non si sa chi una. È, non esageriamo che non si sa chi è, sono fior di economisti e questa è una crisi che ha avuto una natura estremamente particolare. Sicuramente ci sono stati molti errori, sono state fatte molte ammissioni anche di responsabilità da questo punto di vista, però ci serve comunque qualcuno che ci tracci il seminato di dove stiamo andando, perché altrimenti è la fine di tutto. Io mi rendo perfettamente conto anche della depressione che qualche volta pervade il nostro sentimento quando ci sentiamo continuamente nel dovere di correre dietro a tutte queste informazioni, però intanto noi come giornalisti lo dobbiamo fare. Però magari chiedo un commento anche ai nostri ospiti su questo. C'è un po' di scoraggiamento anche da parte vostra nel dover fare questo lavoro, di comunque continuare a creare report e analisi. Il nostro ascoltatore ha citato l'OCSE perché sono le statistiche che sono uscite questa mattina, quando poi effettivamente bisogna sempre, come dire, ridimensionarle, correggerle e comunque proporle anche magari a un pubblico che non ne ha più alcuna fiducia. Matteo Ghilotti di Equita SIM. Beh, sicuramente uno dei problemi di questa crisi, che è stata talmente profonda, molto più profonda di quanto si pensasse inizialmente, che diciamo un approccio classico, il confronto di questo periodo con dei periodi di crisi anche dura, tipo gli anni 70, che inizialmente sembravano sensati, poi man mano la crisi è sempre più peggiorata e quindi certe analisi che si sono fatte, che sembravano molto ragionevoli, anche ragionevolmente pessimistiche, poi invece sono state superate dai fatti, per cui è una fase in cui tutti gli investitori, gli analisti, i gestori sono, diciamo, fanno fatica a capire esattamente quello che succede, fanno loro stessi autocritica, perché è capitato anche questo. Certo, per cui effettivamente anche il mio collega che parlava prima, disegniamo uno scenario molto più negativo, potrebbe essere, cioè non si può dire in questo momento che sia uno scenario. Il problema è che non c'è visibilità in un lungo periodo. Sì, c'è una crisi che ha pochissimi precedenti e quindi effettivamente i parametri che normalmente si utilizzano hanno, come dire, funzionano meno e quindi... Insomma, come a dire, oggi potrebbe bastare una parola pronunciata in un certo modo da parte del presidente Obama per far ritornare su le borse in maniera vistosissima, nella stessa identica misura in cui invece in questa mattinata in maniera molto vistosa stanno scendendo di nuovo. Insomma, si viaggia così in questo momento, dobbiamo abituarci anche a questo. È una crisi di portata inedita per tutti i motivi che abbiamo spesso raccontato. E ritorniamo a Salva Danaio, partendo dalla giornata di borsa oggi, così cerchiamo un po' di commentare questo periodo che a quanto pare torna ad essere piuttosto volatile. Gianluca Gabrielli, Soprarno SGR, c'è una domanda per lei da parte di un ascoltatore di Milano che è Antonio. Ormai lei si è guadagnato la definizione di Gabrielli il pessimista. Sentiamo Antonio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, Antonio. Dunque, io ho ascoltato il parere del vostro esperto e allora chiedevo se secondo lui conveniva in questo momento investire in ETF short, non so su quale mercato, su mercato italiano oppure europeo, dato che se secondo lui i minimi devono ancora arrivare c'è la possibilità di guadagnare sul ribasso. Certo, Antonio, allora conviene completamente stare fuori. Ovviamente sempre con prudenza, destinando ad un investimento che ha una natura anche abbastanza speculativa e rischiosa una fetta molto contenuta dei nostri risparmi. Io questo ce lo metto sempre come suggerimento, poi ovviamente fate come volete, ma in ogni caso cerchiamo di avere anche un approccio prudente ad una fase di mercato come questa. Allora, Gianluca Gabrielli, visto che la domanda era per lei, ci spiega intanto, un pochino lo abbiamo capito, che cos'è un ETF short? Sì, certo, l'ETF short è uno strumento che si comporta appunto in maniera contraria a quello che fanno gli strumenti usuali, ossia strumento usuale compro, se il mercato sale lo strumento che ho comprato mi fa guadagnare. L'ETF short funziona al contrario, nel senso che la variazione percentuale di questo strumento è positiva e quindi l'investitore guadagna se il mercato scende. Può essere su S&P MIB, può essere su Eurostoxx, su vari indici, quindi qui la logica è quella che è come una vendita, passa il termine, allo scoperto, è come una vendita di future, e quindi una vendita di un indice, e quindi avendo venduto un indice, comprando questo strumento, ho sul mio rendiconto, sul mio portafoglio, un guadagno se l'indice che ho venduto scende. Mi permetta solo di dire una cosa, secondo me quello che ci vuole oggi non è né ottimismo né pessimismo, è realismo. È realismo, certo. Il realismo nasce dai numeri. I numeri dicono che la nostra produzione industriale è tornata ai livelli del 1980. Se noi continuiamo a dire che la colpa è dell'untore di turno, che è il subprime, che è il mancato salvataggio di forse di noi sbagliamo. Il vero problema è che il nostro tessuto produttivo, da quando c'è l'euro, non è competitivo e noi dobbiamo risolvere questo problema unitamente ad altro problema, che avendo un debito pubblico enorme o per un certo periodo di tempo deroghiamo al principio basilare che è la tassazione sui redditi e si cerca un altro principio tipo tassazione sui patrimoni, perché se è vero quello che dice l'OCSE, meno 4% di reddito quest'anno nel 2009, se noi abbiamo un sistema basato sull'imposizione diretta e abbiamo un debito che è vicino al 110% del PIL, un'imposizione diretta con un PIL che scende e un'inflazione che magari va negativa, è un mix esplosivo. Detto questo, sull'ETF short, sì, io lo farei un investimento sull'ETF short. L'ideale, secondo me, è scegliere titoli che possono andare bene anche in un periodo di crisi, non necessariamente italiani, e a fronte di questi comprare ETF short. In realtà, quindi, io suggerirei all'investitore ETF short, ok, ma combinato a questo un mix di titoli che possono fare meglio dei mercati. Questo rende la posizione un pochino meno rischiosa e trasforma quindi dal rischio mercato, vendo il titolo e quindi guadagno se il titolo scende, la trasforma in una posizione relativa. Quindi un giardinetto di strumenti che ovviamente possano assolutamente autocompensarsi vicendevolmente. Perfetto. Tra l'altro sì. Poi era anche interessante l'analisi che faceva prima, non abbiamo per niente il tempo stamattina di ritornarci sopra. Volevo però tornare a Matteo Ghilotti, perché c'è un titolo che invece questa mattina, in questo quadro di mercato un po' deprimente, sta facendo qualcosa, anzi è bloccato dalle 9:30 di questa mattina, più 64%, è un titolo che per la verità da un anno e mezzo stiamo parlando per una tendenza totalmente contraria, SEAT Pagine Gialle. Che cosa gli è successo stamattina, Ghilotti? Ma lì sono dei fattori tecnici. Oggi parte l'aumento di capitale ed è un aumento di capitale con delle condizioni un po' particolari, perché il prezzo di emissione è molto basso, è 10 centesimi e vengono assegnate, vado a memoria, tipo 200 nuove azioni ogni azione posseduta, quindi ci sono dei fattori tecnici con un prezzo che venerdì era 6 euro, oggi il prezzo teorico doveva essere attorno ai 25 centesimi, quindi c'è un po' di trambusto che è provocato dalle caratteristiche dell'aumento di capitale, che credo finché dura, dovrebbe durare un paio di settimane, renderà il titolo molto molto volatile, quindi se vogliamo forse appetibile per chi cerca, diciamo, delle emozioni forti. Esatto, ma insomma stiamone alla larga se non siamo in grado di gestirle, tra l'altro. Allora, io ho 2 minuti di tempo perché poi devo mandare una pillola, non riesco a far intervenire gli ascoltatori che sono in attesa, io me ne scuso, ma volevo affrontare con Gianluca Gabrielli rapidamente, se ce la facciamo, la prospettiva di quegli investitori. Qualcuno ci ha scritto, nessuno ha telefonato, ma non vogliono probabilmente così raccontarci forse di questo loro investimento in obbligazioni General Motors. Parzialmente le abbiamo citate prima con Ghilotti, parlando del prezzo che sicuramente è ai minimi termini in questo momento. Perché ha un'obbligazione di questo tipo in portafogli in questa fase? Che cosa può fare secondo lei? Ma guardi, le quotazioni viaggiano molto basse, come diceva il collega prima, siamo nell'ordine, a seconda delle scadenze e delle tipologie di garanzia, dai 15-16 centesimi ai 30 centesimi, quindi le quotazioni delle obbligazioni stanno già quotando un evento molto vicino al default. Quindi a mio avviso l'unica cosa che c'è da fare è, se stiamo parlando di un importo originariamente rilevante per il risparmiatore, io purtroppo cercherei di mettermi il cuore in pace e cercherei di portare a casa il salvabile. Se si tratta di un importo non rilevante, lo tratterei per quello che deve essere considerato, sì, un'opzione, e a quel punto, quindi essendo un'opzione, ho già messo in conto che nel caso l'opzione vada in questo caso, quindi volevo dire, il debito diventa come un'opzione sul risanamento di General Motors, l'obbligazione diventa un'opzione e quindi la tratterei come tale con tutti i rischi del caso, ma questo solo se si tratta di un importo piccolo, appunto tale da giustificare la scommessa che è proprio infatti, appunto dello sperando di non dover parlare tra qualche settimana di una Lehman Brothers nel settore automobilistico, speriamo proprio di no. Allora, vi ricordo che da domani potete trovare in edicola con il Sole 24 Ore il sesto volume della storia dell'economia mondiale, dal titolo Fra espansione e recessione, l'apogeo della borghesia e dell'imperialismo. Ascoltiamo una breve pillola tratta da questo volume. Dalla City a Wall Street, moneta e finanza, di Marcello De Cecco. La trasformazione in senso dirigista delle principali economie indusse anche il desiderio, al termine delle ostilità, di tornare alle libertà godute prima, ai bilanci in pareggio, ai cambi fissi, al sistema aureo. Quest'ultimo assurse al valore di simbolo di tutto quanto c'era di meglio nell'anteguerra, una bella époque, amata specialmente dopo che la si era perduta e sublimata fino al livello di mito. Grazie a Matteo Ghilotti, Equita SIM e Gianluca Gabrielli per essere stati con noi questa mattina, averci aiutato un po' a leggere quello che sta accadendo questa mattina in borsa. Ne continueremo a parlare per tutta la giornata, tra cui anche tra pochi minuti a GR Extra Large. Noi allora ci risentiamo tra pochissimo. Salva Danaio torna domani. A tutti, buona giornata. Salva Danaio.